guardati un film e porno e non sfruttare la tu donna. Tu li vedi film porno, Mauro? No, una, mi aveva regalato tre o quattro un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo lì. Più porno lo guardi, no? No, no, no. Non ha no, tempo, per carità, non ne frega niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è ma che ti eccita di più di una donna? Il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera Peppe. Riguardo alle donne dell'est, non ve ne intendete. Io ho avuto un'esperienza diretta e posso giurare che sono delle grandi manipolatrici. Io l'ho portata per Roma, per Firenze, per Venezia, gli ho fatto delle bellezze d'Italia. Questa è tornata dal fidanzato, è tornata, sta grande zoccola. Sta grande zoccola. Bruciani, oggi sono in giro a Milano, sono venuto a Milano, quanto piacere avrei avuto. Guardate in faccia e dite che sei una razzista di merda, canta tanto tanto piacere. Parenzo, sei un gran cornuto e sei un ebreo di merda cravattaro. Te venga a sputare in faccia. Tu a me non mi conosci, io a te quella faccia da cazzo la conosco. Vedrai che me te paro davanti e ti sputo in faccia. Poi chiama chi cazzo te pare a te. Denunciami, fammi quello che cazzo ti pare. Mi fa un'altra denuncia, me ne frega un cazzo. Te venga a sputare in faccia. Puto, intanto piede questa. Ciao Cruciani, liberate da sta merda. Che è meglio, liberate. Ragazzi, prima notizia importante. Prima Parenzo. Notizia è che sono le 18. Che succede? 37, che non sì. Sto bene, un po' di tosse. Sì, allora? Niente di grave. 18 e 37 sono stati commessi a Radio 24, Foro Competente, credo, Milano, due reati. No. Quello di minacce no. E ingiurie. Minacce, effettivamente minacce. Sì, minacce. Mi sembrano abbastanza evidenti. Aggravate sì. Dall'odio razziale. No, allora, beh, di tu. Sì. Ah sì, beh sì, perché ha parlato di ebrei, certamente. Esatto, sì. Di certamente. 18 e 37, Foro Competente, Tribunale di Milano. Se per cortesia mi fornisci il numero di questo miserabile che ha usato queste parole gentili nei miei confronti, do subito il cellulare all'avvocato Trucco, così inizia ad avviare la pratica. Dice no, 18 e 37. Beh, non possiamo, ma non possiamo iniziare così, però, sì, scusa, dobbiamo. Col Foro Competente. Ma dai. Foro Competente Milano. Vabbè, bevi un bicchiere d'acqua, fai qualcosa, dai, andiamo, tu dai una botta sul petto, così. Quando vedi uno che sta male, così, sì, uno con le stampelle, cosa petto, gli dici? Ma... cammina invalido, non ho capito, ma sei così sensibile. Dici, vedi uno in carrozzina e dice, dai, forza, la radio, cammina. Cammina, che sono sulla sedia a rotelle, che devo fare una alla tosse, cosa devi fare, sta male. Bere prima. Bene, sto bevendo, bere sto prima. Bevendo. Ecco, allora, ragazzi, vabbè, questo ragazzo è malato, dai. La notizia di oggi è che se sono bevuti il convertito. Cioè, lo dico in maniera molto chiara e semplice. Ah, sì, si sono cioè. Bevuti il convertito, tradotto sì. Dal romanesco all'italiano. Hanno iniziato, hanno messo sotto sorveglianza il convertito di Bari, Mohammed Alfredo, da noi intervistato. E credo sia stata anche l'ultima intervista che ha concesso prima di essersi. Prima di cadere nelle grinfie della giustizia. La cosa incredibile è che hanno tolto al barese e alla moglie della Costa d'Avorio le sì. Due figlie. Lui voleva praticamente ritoccare il clitoride delle bambine, delle sue bambine. Ha detto: io in Italia non lo posso fare, devo andare in Africa oppure in un paese arabo dove me lo fanno fare. La famosa, quella che lui non chiama infibulazione, ma che è più o meno la stessa cosa, perché è la circoncisione al femminile. Allora, io risentirei proprio un piccolissimo passaggio di questo Mohammed Alfredo, che hanno indagato anche per terrorismo. E alle tue figlie tu la farai questa circoncisione sul clitoride o no? Al momento io non ho preso alcuna decisione. Beh, però è chiaro la vuoi che fare. È meritevole, è chiaro che è meritevole, però non posso in questo momento particolare prendere una decisione rapida, anche perché sono molto piccole. E quindi nel tempo io prenderò la decisione, inshallah. Se tua moglie ti tradisce, che succede? Se venisse applicata la legge della Sharia, rischia grosso. Cioè la pena di morte, diciamo la verità. rischierebbe anche quello. Però merita la pena di morte una che tradisce, secondo te? Ma guardi, ma questo c'è scritto sul Corano. Amico mio, il Corano, però adesso c'è la sorveglianza della Digos, della polizia, le figlie, tolte le figlie, questo è un provvedimento gravissimo, comunque, hanno praticamente tolto le figlie e le hanno date ai servizi sociali, adesso non so se c'è già operativa la cosa oppure no. Allora, mi riferiscono che con la chiusura del programma della Perego, su cui oggi non vorrei tornare, che mi sono anche rotti i coglioni dopo due giorni di discussioni su questo programma della Perego, però naturalmente se volete intervenire, intervenite, dite quello che vi pare, sono stati mandati a casa per quella trasmissione, non a casa magari definitivamente alcuni, tra collaboratori esterni e collaboratori interni della RAI, 16 donne e 10 uomini. Ma l'hanno detto pochi minuti fa. Mamma 16 mia. Donne e 10 uomini. Un'ecatombe hanno fatto. La Boldrini ha fatto cacciare 16 donne e 10 uomini. Vi dico solo questo. E per li una minchiata. Li assumi tutti. Li prenda la camera. Li prenda la camera. Chigi, bravo, li certo, prenda sì. La camera. A Palazzo Chigi, scusi, alla camera. Allora, il sindaco di Cantù, che si chiama Bizzozero, ha detto che Napoli è una fogna. Ha detto che Napoli è una fogna. Sì, no, un personaggio incredibile, mi pare. Una fogna, ha detto anche che è una città criminale, violenta, sporca. Naturalmente è stato querelato dal sindaco di Napoli De Magistris. E poi anche i neoborbonici sono intervenuti dicendo che bisogna boicottare signori neoborbonici. No, io capisco più la trasmissione con gente che insulta, pornografie, gente che fa insomma porcherie varie. Ma c'è stato un attentato a Londra, ragazzi. Vabbè, ma è morto quello, l'attentatore. Che cazzo ce ne frega, scusa. È morto l'attentatore. Sì, andiamo avanti, dai, ma cazzi, dai. Abbiamo in collegamento da Cantù un transessuale. Allora, come sta? Pronto? Buonasera. Scusa, però il sindaco di Cantù ha detto sì. Napoli è una città sporca, inquinata, criminale, sì, mafiosa, no. Corrotta, degradata, clientelare, qualcosa. Parassitaria e incivile. Solo. Sindaco di Cantù. Cantù. Sindaco di Cantù. Battaglia a dalla vostra parte tra un signore che fa il mediatore culturale che si chiama Modu Gay. Modu Gay o Modu Gay. Vabbè. Contro una piazza di Vicenza. La solita formula: un negro in studio e la piazza di Vicenza contro gli immigrati. Ladri, bastardi, togliete il lavoro agli italiani. Senti. È che questi ragazzi qua poi non sono controllati, vanno in giro per il paese a oziare, cioè, a mamma, disturbare. Cioè, ma davvero? A ma dove Clivio viviamo qua? Posso? Prego. Viviamo qua, a Vicenza viviamo qua. A sentire, non ce l'abbiamo qui vicino, è pieno, sono tutti presi a spacciare. Comunque è incredibile come. Ma questo è Crozza. No, ma è incredibile come la scena. Questo è Crozza dalle vostre parti. È incredibile come la scena sia sempre uguale. Sempre. Cioè, sempre, la piazza di Vicenza. Sono presi tutti a spacciare qui. Che maledetti, non si esce negro, più. E il negro in studio, in questo caso un mediatore culturale, Modu Gay. Sì, ma sempre preso un mediatore culturale. Perché negro, come negro. Il mediatore culturale, no? Eccolo qua. Lei di cosa si occupa esattamente? Ma io provo a integrare. Sentiamo Vicenza. Maledetto, assassino. Non ho detto niente veramente. Prova a integrare. Senti. Dai ragazzi, se ne può più. Posso dire che state dicendo, se mi permettete, una lei minchiata. Dove vive? Lei dove gira? No, non sta dicendo una studio. Minchiata. Buono. Quello che sta dicendo non sta né in cielo né in terra. Perché, non è una minchiata, non è possibile. Venga a vedere. Quanti buoni. Italiani sono all'estero? Più di 60 sono milioni di italiani da, sono... Cioè, dai, sono presi dalla criminalità organizzata. State esagerando. Sono fuori e non sapete cosa vuol dire diritti umani. A disturbare la gente. Diritti umani. Sono fuori dai supermercati a disturbare la gente. Ma disturbare cosa? Ma dove vive lei? Gli ignoranti, se posso permettermela, davvero. Perché Poletti. Poletti. Ma è troppa. È troppo, davvero. Non si può. Non si può imparare ad ascoltare. Ma andate a prendere i vostri italiani all'estero allora. Ma ricordate quando gli italiani prendevano i balconi e andavano. Però Maurizio. Ok, incredibile. Bellissimo. Poi c'è il carico da 90 di Poletti, ecco, no? Intervi- perché gli dicono al negro: ehi, zitto, impara ad ascoltare. Non ha neanche parlato, poveretto, no? Ma dai, stai zitto, negro! Qui in Italia la parola non la puoi portare via. Allora, bel Pietro, allora cosa ha da dire lei? Ma veramente, mediatore, zitto, negro! Ma ecco, ma ragazzi, ma che modo è? E allora che cosa sono quelli che vanno in giro a vendere droga e a stuprare? Sono dei spacciatori, sono dei spacciatori, sono dei stupratori. Perfetto, è pieno di spacciatori. Ti informo, però ci sono più di 6 milioni di stranieri in questo paese che lavorano. Buoni. Sono più di 6 milioni in questo paese che lavorano. Riusciamo a ragionare con calma. Ma questo è incredibile, calma, amico mio. Dice calma, sempre buoni, grande direttore, buoni, con calma, riusciamo a ragionare con calma. Da una parte c'è la piazza, c'è, attento, la piazza, no, è Modugai e no, Poletti. Dai, ma esatto, su, bravo. C'è la piazza che urla: sono fuori dai supermercati. Vabbè, poi c'è il negro. Poi ci sono tre o quattro deputati, tra cui la Santanchè. Si vergogni, si vergogni. È inaccettabile quello che dice il negro. E poi Poletti. Avete senti, visto? Senti ancora Poletti, dai, senti ancora ragazzi, Poletti, senti il polettone. Non è possibile. E per Mudugay, al quale fa così tanto schifo l'Italia, c'è sempre l'opzione del ritorno in Senegal. No, che se ne torna. A me piace l'Italia e gli italiani. Ci credo, ci credo che ti no, piace l'Italia. No, perché l'Italia, puoi fare il cavolo, cioè, che vuoi. L'Italia è accogliente e generosa. Certo, no, per fortuna, guarda, non sono tutti come lei o come il genitore. Buoni, non litigate, fatemi finire tranquillo, dai una volta. Non è che se ne deve tornare torna a casa in sua. Senegal. Ma perché, poveretto? Vuole stare qua, sta benissimo. Modugay, eh? Fermi tutti. Cara bue, la morale la vai a fare la tua tribù, non a me. È la gente, no, come me, la vai a fare la tua tribù. Hai capito? Non ho una tribù. No, le fesserie le dici tu e torna dalla tua tribù col bondo. Andiamo un attimo. Ed ora Donald Traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta Zanzara. Cruciani, a tutti quelli che rompono il cazzo per l'imitazione di Parenzo del Filippino, mettigli la canzone Filippino Rock di Elio e le Storie Tese, così almeno chissà che stiano un po' zitti, sti rincoglioniti. Io ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sgrassato forno e stilato camicia, poi sbagliato tutto e messo camicia dentro forno microonde, camicia microonde. Ero d'altronde la casa occidentale, difficile da ordinare, scottato pattumiela. Allora ragazzi, allora, qui c'è una grande novità oggi. Signori, sì, Forconi, sì, sono stati perquisiti in tutta Italia. Ottima notizia. Operazione ottima della Digos. Oltre bene, che per bene ingabbiare il musulmano che vuole infibulare le figlie, anche per fare delle perquisizioni a casa dei signori Forconi, alla ottimo, cui testa, come sai, ottimo, c'è un ex generale dei Carabinieri, che sempre generale è, perché chi è stato generale rimane sempre generale, il signor Pappalardo. Io voglio capire una cosa, ragazzi. La Digos, adesso, con tutto il rispetto, io conosco un sacco di gente della Digos, fare un ottimo lavoro, sono persone meravigliose e tutto quello che volete, in particolare la Digos di Milano, conosco diverse persone che sono splendide. Il punto fondamentale, amici miei, i Forconi, lì non c'è bisogno della Digos per i Forconi, c'è bisogno del manicomio criminale, basta, dei medici, no, la Digos, i medici col camice bianco per i Forconi, sono quattro gatti. Se la nostra Digos si deve occupare dei Forconi, significa che siamo finiti. Ma volete sentire quello che diceva fino a pochi giorni fa il generale Pappalardo? Sì, certo. Il generale Pappalardo, di cosa stiamo parlando? C'è bisogno della camicia di forza, la camicia di forza. Noi dei Movimenti di Liberazione Popolare, una grande rete civica distribuita sul territorio nazionale, e nello stesso tempo con il Movimento Forconi, ci siamo mossi e abbiamo detto: signore, o vi mettete a posto o noi vi arrestiamo, perché i cittadini non sanno che c'è il 383 del codice di procedura penale che consente al cittadino, al privato, di arrestare chiunque venga colto in flagranza di un delitto perseguibile d'ufficio. Io ho pulito bagno, poi stilato camicia. Beh, amico mio, fra poco te se bevono a te. Altro che i deputati che vuoi far arrestare. Altro che i deputati che vuoi far arrestare, Pappalardo. Fra poco ti si bevono. Tradotto da romanesco, ti arrestano. Perché no, ma la cosa assurda è che purtroppo rischiano di fare un favore ai forconi questi qua. C'è grande pubblicità per una cosa inesistente, per quattro scannagatti, tra cui Pappalardo. Ragazzi, Pappalardo stiamo parlando, Lavato pavimenti. Quando un parlamentare che è abusivo da 3 anni e mezzo si prende un sacco di soldi, sta lì dentro commettendo gravi delitti contro la personalità dello Stato, fra cui l'usurpazione del potere politico, da 8 a 15 anni di reclusione, voi lo potete arrestare. E ci avete anche provato. E ci abbiamo provato, ci abbiamo provato, ne abbiamo preso uno. Ne abbiamo preso uno che peraltro è un ex deputato, vi siete pure sbagliati, un ex deputato, il signor Napoli. Ragazzi, ma siamo al delirio, dai, su. Cioè, ma tu non pensi, davvero, Davide, che questi hanno fatto un regalo ai forconi in questo modo? No, c'è la polizia. Ma hanno fatto un regalo ai forconi, ma questi sono quattro coglioni. Fratello mio, ma cerca di capire. Se uno dice che vuol mettere a ferro e fuoco le città, che vuole arrestare i deputati, ma non è tutto un circo. Ma sì, ma invece sì. Se uno invece scende sì. in piazza con dei forconi e arresta dice, un deputato, ex deputato, quello che è, ma insomma. Se sono pure sbagliati. Sbagliati, d'accordo, ma per quello ci sono le forze dell'ordine. Ma non è. Allora, ma ci sono i manicomi, non le forze dell'ordine, i manicomi ci sono. Soprattutto, ma purtroppo non ci sono più. Intanto gli fai una bella perquisa a casa. Ma prima, sì, che non vabbè, fa male a nessuno, ma invece fa solo pubblicità. Infatti, sono tutti ringalluzziti oggi, questi qua. No, dai. Vabbè, apriamo le cataratte. Dai, Salvatore dalla provincia di Latina. Vai, Salvatore. Salvatore, dimmi, Salvatore, dimmi. Cruciale, io ti ho telefonato 6 mesi fa, ti ricordi? Da no, ma come faccio a ricordarmi che tu, Salvatore, da Latina, dalla provincia di Latina, mi hai chiamato 6 mesi fa, amico mio. Hanno chiamato... Te lo dico io perché? Dimmi. Perché sono incazzato nero. Sei incazzato nero? Vabbè, con chi? Sei un forcone pure tu? Allora, prima di tutto con sto Papa che non si può più, Perché? Che ha fatto il Papa oggi? Che ha fatto? Oggi è che ha detto, la tragedia. Questa immigrazione dobbiamo accogliere tutti. Sì, ha fatto un altro appello all'accoglienza. Bravo. Sì, un appello all'accoglienza. Perché non signora? Ha parlato quando hanno ucciso, a parte la pedofilia, ma quando hanno ucciso vabbè, tutti quei bambini in Irlanda. Vabbè, ma adesso che c'entra questa roba qua? Non c'entra nulla, dai. Che chiesa, vabbè. Io allora, sono incazzato pure per questo governo. Sei incazzato col governo, vabbè, oltre che col Papa anche col governo. Sì, non riesce a. Questo è un altro da camicia di forza, Parenzo. Totale. Perché praticamente a Cruciale. Sì, dimmi. Sono 4 anni che non c'ho il lavoro. Sì, e il curriculum li ho spediti in tutti i modi. Che mestiere fai? Che mestiere fai? Facevo il magazziniere in un cantiere. Amico che mio. Perché ho capito, però se in 4 anni non riesci a trovare lavoro da magazziniere, amico mio, niente, non sa. Ma per tutto. Forse ci sarà qualche perché problema. Perché hanno messo in mano agli immigrati queste cooperative. Adesso è colpa degli immigrati se non trovi lavoro. Sì. Bravo, cioè bravo, i migrati fanno gli immagazzinieri. C'hai le prove? Che prove c'hai? No, ma per tutti i lavori. Intervieni tu oggi, lo so che c'è la voce. Facciamolo continuare un attimo. No, non è che la voce, facciamolo continuare, esatto. Voglio vedere dove arriva. Perché vediamo dove arriva. Io ho scoperto che hai scoperto che questi i cooperanti vanno dando. Vogliono far lavorare questi immigrati per 4-5 ore. Sì. Senza niente. Cioè in nero dici, in nero. Bisogno di lavoro. In nero. D'accordo. In nero, bravissimo. Cioè tu dici, no, bravissimo, lo dici tu, bravissimo, gli immigrati ti hanno tolto il lavoro, dici. Ecco. Sì, aspetta. Adesso. Sì. Parenzo? Vanno proprio praticamente sì, dove vanno? Stanno cominciando a lavorare nei negozi cinesi. Sì. In alcuni ristoranti. Da un po' di tempo ci lo sai, io ho detto ma perché volevo lavare i piatti, volevo fare il cameriere. E allora? Perché non è possibile? Perché? No, questi lo Stato mi dà 500 euro sì. Perché al cosa? Mese per 4 mesi sì. Se mi va che lo posso prendere. Io non scusami, Salvatore, scusami. Non ho capito nulla, niente. Tu fai il magazziniere, perché vuoi fare cameriere adesso? Ma voglio fare pure il badante, Crucià. E tu dici che sono gli immigrati che ti tolgono il lavoro? Sì, ho chiesto di fare il badante, però il badante. Al giorno 500 euro al mese è venuto un extracomunitario. Io mi accontento di Dio 50. Va bene, Cruciani? Ma che ne so, io, amico mio, mi sa che tu c'hai. Sì, sono cose alla mano, ce l'ho io. Ma non lo so. Ma un casino della Madonna. Ma amico mio, ma mi sa che tu c'hai un po' di problemi di altro tipo. No, non è così. Hai un po' di problemi di altro tipo. io sto facendo hai un po' di problemi di altro tipo. Secondo me hai problemi di altro tipo. Sì, amico mio, sicuro. Sicuro, fermo lì. Hai dei problemi. Guarda bene dentro la tua testa che hai dei problemi. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ma l'avete visto Rocco Siffredi su Facebook che fa palestra mentre ascolta la Zanzara? Siamo al top. Novità da casa Benson. Sentite, però. Sentite. Per cui sto ritornando alla grande con un nuovo gruppo. E ho altri progetti in mente. Un disco nuovo, sicuramente. Titolo ipotetico Psycho Deleria, ovvero il delirio della psiche, per un discografico di Cuneo. Tempo non li potevo vedere, mi facevano tanta paura, una paura bestiale. Penso di essere l'unico chitarrista italiano, a parte i vari cantanti insomma famosi tipo Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, a riempire a dismisura tutti i locali che faccio. Vado dalle 3.000 alle 5.000 persone ogni serata. Sono contento di restare in buona salute, vedete, ho rimesso anche i denti, non ho nessun problema economico, non mi serve niente da nessuno, non me ne frega un emerito cazzo dei soldi. Da notare il titolo che vuole dare all'album, sì. Il delirio della psiche. Ah, il delirio della psiche, certo. Vi dovete spaventare! Vi dovete spaventare! Molti si sono chiesti. Scusa, io non ho capito esattamente. Uno in genere paga 5.000 persone, lui dice, no? Uno paga per sentire queste urla, non capisco. Assolutamente sì, ma ragazzi, capito. Ognuno ha i suoi must, sì, ognuno ha le sue caratteristiche. Per carità, prima per pagavano per tirare la roba, forse sì. Anche adesso. I polli. Pagano, forse qualcuno sì. Pagherà, non lo so se 3-5.000 o 3 o 5, perché secondo me 3/5 o 3.000/5.000, non lo so. Per sentire le urla di Benson. Ma io pagherei per sentire le urla di Benson. Davvero? Sì, assolutamente. Sì. 15 euro pagherei, 10-15 euro. 10-15 euro. Non di più. D'accordo. Molti si sono chiesti negli ultimi giorni, ma scusate, ma perché non si sente più Emilio Fede? Perché? No, come mai? Cioè, il direttore, che fine ha fatto il signor Fede? Signor Fede? Abbiamo provato a indagare. Vediamo. La notte non riuscivo a dormire, non riuscivo a prendere sonno. Ehi. Direttore, come stai? Ancora vivo? Siamo tutti preoccupati, è sparito. Ma chi parla? Niente processi, niente scandali, niente bancarotta. Ma dove è finito Emilio Fede? Questo è l'ufficio postale di Orbassano, ma lei chi è? Ma io sono un grande fan suo, direttore. Io voglio sapere cosa fa, è sparito. Lei deve andare a fanculo subito, prima che io lo denuncio per gravi minacce e violazione della privacy. Ma no, io voglio solo... Figlio di puttana che non è altro. Lei sta disturbando un servizio pubblico. È un testa di cazzo che compare da sconosciuto, vada a fare in culo. Perché non fonda un partito? Perché non fonda un partito come Lele Mora? Ha sentito? Siete delle merde! Ma scusate, adesso era un fan che chiedeva spiegazioni, Emilione. un fan, stavolta non era una telefonata, diciamo, di quelle che ricevi, vabbè, ma le riceve troppe, ma un fan dai, che sì, chiede spiegazioni, cioè un fan che chiede spiegazioni, di cosa stiamo parlando, dai. Ho capito, però allora, Enrique, non so, dal Brasile, non so da dove, ci ha chiamato un tale che si chiama Enrique. Enrique, vabbè, sentiamo, dai, Enrique. Oh. Sì, sono io, Crociane. Sì, dimmi, Enrique. Buonasera. Che vuoi, ma da dove chiami, scusami? Siamo dal Brasile, Belo Horizonte. Sì, dal Brasile, vabbè. Brasile, ma... Crociane, vabbè, Parenzo, dai, Enrique, non ci pigliare per il culo, a rubare a casa dei ladri, dai, su, cioè... Avanti, no, no, dimmi. Vorrei soltanto salutarvi perché io sono il vostro ascoltatore. Sì, sicuro, sì. Tutti i giorni, sì, e che vuoi? E che vuoi da noi, scusa? Soltanto dire che amo il programma, che sono un fan, sono un fan d'Italia, fan della radio, del programma della Zanzara, di voi, di sì, voi. Sicuro, voi. Guarda, tu sei chiami sicuramente dal Brasile e sei un fan della Zanzara. Guarda, tu è certo al 100%. Marco da Lecce, vai, Marco. Marco. Io vi chiamo perché, guarda, state diventando il dalla vostra parte della radio. Sì, perfetto. Date per scontato che chi vi ascolta sia ignorante come chi guarda sì, dalla vostra parte. Compreso te, certamente. Sì, sì, compreso io che non vi ascolto da un pezzo. Sì, tu sei sicuramente il primo delle bestie. Sono in fila il primo sei tu. Vi indignate tanto perché sì, la Boldrini si è scatenata contro Rai 1, la Perego, che mancava soltanto che dicesse che quello dell'Est mangiano i croccantini e siamo a posto. Cioè, non ho capito che cosa vuoi dire, scusa, spiegami, Marco. Cioè, non ho capito. È ovvio che era indegna la descrizione delle donne. Secondo te indegna, va benissimo, sei libero di dirlo. Cioè, sai che ma che c'entriamo, così? Che c'entriamo noi? Quei cesti che sono stati sempre rifiutati nella vita dalle donne le vedono così, le vogliono addomesticate. Ma cosa c'entriamo noi? Un altro. Hai attaccato. Insultare la Boldrini. Ma io non ho insultato nessuno. Siete a livello di Salvini, la Boldrini, gli immigrati, la Raggi. Ma come cazzo state scendendo? Che c'entra la Raggi, cretino? No, avete gli stereotipi. Ma che c'entra la Raggi, imbecille? Avete la stessa scaletta, avete la sempre sì, la stessa scaletta. Sicuramente. Ma di cosa sta la scaletta parlando? Serve per salire, per andare a prendere no, le cose nell'armadio, imbecille. Voi fate... La stessa propaganda. Sì, la propaganda, becera, sì. Propaganda, certo. Dei salviniani e della Lega. Sicuro, guarda, Parenzo è il primo salviniano d'Italia, cioè, guarda. Le segnalo. Ogni settimana a chiamare Sgarbi che sta diventando la macchietta di se stesso. Bene. A dire, il turpiloquio solo per fare ti segnalo. Ma come cazzo siete me? Come peggio, io dico che peggio dei Sallusti, peggio di questi, peggio di questi che non sono giornalisti, che non sono uno lo sa che non sono giornalisti, lo sa. Ma chi lo decide lei? No, ma è ovvio, uno non è che si informa leggendo Sallusti, Del Pietro, Del Debbio, peggio di loro, ci siete voi che vi dichiarate liberi, peggio perché loro sappiamo che non sono liberi e quindi uno sa che non si deve informare mentre da loro. Noi peggio mentre perché voi vi dichiarate liberi, dite di essere liberi, invece è un cretino. Imbecille, sei un cretino, stai parlando tranquillamente, vai, sfogati, vai. Peggio di loro, ci siete voi che vi dichiarate liberi, ma siete davvero incriccati. Bello questo termine, non l'avevo sentito ancora, incriccati, che vuol dire incriccati? Perché se non potete dire fammi capire ancora. Parla italiano se ci riesci. Mi faccia capire. Termini ma da quanto incriccati, che vuol dire incriccati? Da quanto tempo la sua ragazza non l'abbraccia? Ti faccio un esempio. L'altro giorno vi indignavate tanto, non per la porcata di Forza Italia e PD. Ma come no? Io mi sono incazzato, per esempio. Qual era lo scandalo? Scusi. Le parole di Di Maio che non ha nemmeno incitato alla violenza. Lei è un 5 Stelle. Non è 5 Stelle. Mamma mia, io sono pronto a non votarli domani. 5 Stelle, non me ne frega un cazzo. Ma chi devo votare? Il PD che va in televisione e dice una cosa e poi ne fa chi un'altra. Se ne frega per chi vota chi lei? Deve votare la Lega, il partito dell'ignoranza. No, Forza Italia, mi faccia capire. Scusi. Ma tu hai le pigne in testa. Hai le pigne in testa. Tu hai le pigne in testa. Questo è il tuo problema. Tu sei incapace di intendere e di volere. sei, ma non mi interessa, sei incapace, tu sei incapace di intendere di voler. Per esempio, che c'hai? Che c'hai con Sgarbi? Non ho capito bene, che c'hai con Sgarbi? Ancora con sto Sgarbi. Sgarbi, lo chiami, sì. Ti sa che ormai prima una mezzo sorriso te lo poteva anche strappare, perché vedevi che il torpiloquio era spontaneo. Ma quando? Quando? Dove? Perché? Dove? In che coco? Non sai nulla, non sai niente. Dici, mamma mia, Cruciani, dici sempre la stessa puttanata quando non sai che dire. Ti sto dicendo che Sgarbi fino a poco tempo fa. Sì. Cerca di articolare. Se la poteva anche strappare una mezza risata. Adesso invece che c'ha? Adesso no, perché è solo una macchietta. Si vede proprio che la fa. È una macchietta. Lo decidi tu che è una macchietta. Ma si vede proprio. L'ha deciso lui che è una macchietta. Parla di tutto. Lo chiamano per parlare di qualsiasi cosa. Cioè, Marco da Lecce ha deciso che Vittorio Sgarbi è una macchietta. Avanti. Si parla di evasione, chiamano Sgarbi. Di puttana. Oh, aspetta. Sgarbi. Aspetta un attimo, che c'è Vittorio che mi chiama. Aspetta, che succede? Vittorio, che c'è? Dimmi. No, sto sentendo questo bravo uomo, ma sì, bravo uomo, macchietta o meno, non è che mi interessi, voglio tornare al tema fondamentale. Aspetta un attimo che ti richiamiamo, c'è la pubblicità, ti richiamo. Sì. Ciao. Aspetta Marco, aspetta lì, aspetta. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Allora, non so se avete sentito prima, ma c'è uno straordinario video di Rocco Siffredi mentre fa palestra, caro Parenzo, fa palestra e ascolta La Zanzara a manetta. Cioè, lo dice, lo scrive proprio lui, si sente la nostra voce in sottofondo e c'è lui che fa palestra mentre sente La Zanzara, straordinario. Allora, c'è Vittorio Sgarbi con noi, però prima voglio dire una cosa, a difesa di Antonio Razzi, che non so fra quanto, ma fra un po' avremo anche in collegamento, tornato questa mattina da Assad, perché la cosa vergognosa che è successa nei giorni scorsi, cioè Antonio Razzi è uno straordinario comico ed è una persona che riesce a trasformare tutto in macchietta, riesce a trasformare tutto in qualcosa di straordinariamente teatrale. Cioè, il selfie con Assad è un'opera d'arte. Sì, sicuramente. Considero è Cattelan. Sì, ma adesso considero il selfie con, cioè, l'immagine di lui col dittatore, sì, Assad. Bellissimo, dittatore. Bellissimo, poi, sì, bellissimo. Certo, dittatore, un personaggio discusso, eccetera. Però ci trattano tutti, ci fanno affari tutti. Trattano con lui contro l'ISIS. Bravo, di che bravo, parliamo? Bravo. Ci sono foto del presidente napolitano, napolitano con Assad, giustamente era in visita di Stato, e adesso se la prendono con Razzi. Perché il Corriere della Sera, che ha detto che è osceno quel selfie, non ha detto la stessa cosa con Napolitano quando ha incontrato Assad? Perché non ha detto la stessa cosa? Perché i moralisti e le moraliste dei Noantri non si sono scandalizzate all'epoca? Perché? Perché Razzi, è più facile scandalizzarsi per il selfie di Razzi, che invece riesce a trasformare questo incontro, non so quanto casuale o forse no, con Assad, che pare che gli abbia chiesto il selfie, in qualcosa di teatrale, in qualcosa di assoluto, in un'opera d'arte. Caro Vittorio, non sei d'accordo con me che quel selfie lì di Razzi con Assad è un'opera d'arte bellissima, stupenda? Siete ormai arrivati a una raffinatezza, è esattamente così, come quando io indicai uno dei paradossi quasi la biennale della foto di Vlad di Lussuria che prende la comunione da Monsignor Bagnasco. Bellissimo. E allora, bellissimo, di fronte a queste foto paradossali c'è l'elemento creativo e c'è un elemento che supera quello giornalistico, per cui se un inviato riuscisse ad arrivare da al-Baghdadi intervistato sarebbe un eroe, perché al-Baghdadi in quel caso sarebbe uno raggiunto da una capacità di comunicare cose magari. Sì, ma no, ma voi vi rendete... Della fattispecie. Sì. No, della fattispecie. La stessa cosa l'ha fatta Raggi, però con il di più deve essere comico, paradossale, di spontaneo dittatore. E poi, tra l'altro, è un dittatore, certamente, ma resta comunque, e va detto, meglio dell'ISIS che ha distrutto Palmira. Per quello che riguarda Assad, qualunque cosa abbia fatto, la condanna va contro questi criminali che hanno distrutto la civiltà e ucciso innocenti. Assad ha fatto una guerra civile cui poteva andare allora anche. No, ma avrà gasato migliaia di persone, ma non è quello, no, il punto. Il punto è che da quel selfie lì, esatto, cioè, facciamo affari con Erdogan, che anche lui, insomma, non è certamente appunto, di primo pelo. Il punto è un altro. No, che ma il punto è perfetta. No, ma da quel selfie lì siamo all'erismo puro e Catela, ma c'è di più. Quando Assad andrà a googolare sul suo Google la parola razzi, e sarà lui scandalizzato. Che cazzo ha fatto con tutti i criminali? Cioè, sarà l'imbarazzo vero è di Assad, che si è fatto fotografare qua, perché quando si accorgerà davvero chi è razzi, che dice te la dico da Ami, che secondo me andrà a vedere tutti i video. No, è più dannoso per Assad quella roba lì, è molto più dannoso, è molto meglio, è molto meglio il selfie di Razzi contro Assad, piuttosto che tutta la politica occidentale. Anzi, Razzi sarà quello che abbatterà il regime di Assad, cioè, perché è più ridicolizzato Assad. Ma vi rendete conto che hanno scritto editoriali il selfie osceno contro uno? Ma vaffanculo, siete dei poveracci, ve la prendete con Razzi semplicemente perché non parla bene italiano, quando avete fatto affari con Assad fino all'altro giorno, e quando veniva in Italia abbracciato da Napolitano avete fatto pippa e siete stati zitti. Vi dovete vergognare. Perché non dite qualcosa contro Assad quando è venuto in Italia per fare affari? Perché non vi vergognate per quello che avete scritto? Vergogna. Ormai sono sempre d'accordo con voi. Senti Vittorio, però voglio capire una cosa. Questo ascoltatore qui prima ha detto che sei una macchina. Marco da Lecce. Marco, allora innanzitutto ti ringrazio di aver chiamato Sgarbi. Sgarbi ha chiamato lui, che vuoi ancora? No, non voglio niente. No, aspetta, fai finire questo cretino. Aspetta, dai, Marco. Mamma mia, sempre non ci capisco. Vabbè, sei un imbecille, sono un imbecille, non ci capisco. Vabbè, ma se lo sai, ma tu sai di essere un imbecille, per cui sei consapevole. Mi sveglio la mattina e dico sono imbecille. Assolutamente, ti guardi allo specchio. Ti ringrazio, spero che non mi sfumi ora per quello che sto per dire. Chi vuole sfumare? Approfitto per sputtanarvi. Quando era un mese fa, il finto grillo della De Pensante, che il finto grillo si chiama Sgarbi. Che era assolutamente consapevole che fosse offitto grillo. Non era assolutamente consapevole, non sai un cazzo. Aspetta, fai rispondere Sgarbi, cretino. Fai rispondere Sgarbi, imbecille. Vittorio, rispondi. Allora, l'elemento della finzione nel caso di Grillo funziona comunque, perché ha creato uno spaesamento vero. Ma non sapevi della nostra telefonata? Della nostra telefonata non sapevi nulla. L'ha fatto capire. Ma voglio dire, vero o falso che sia, il tema è che il pensiero di Grillo, che ha commissariato adesso a Genova la candidata, è esattamente quello che lui ha della Raggi, perché lo conosco bene, e non può non pensare che lei è una depensante. Siamo andati oltre la verità, facendogli dire quello che non voleva dire, perché ormai, essendo sindaco, la deve difendere. Sì. Ma questo, macchietta o non macchietta, è irrilevante. Voglio toccare tre punti che sono entro le questioni della macchietta. Quello dell'altra sera con te, mi davi sempre ragione, in cui ho mandato a fare in culo la Costa Magna. È un elemento che è quello violento, caricaturale, ma dico, ma dov'è l'offesa per mandare a fare in culo? Da voi Corona ha detto che la parte che predilige della donna è il culo. Quindi io ho detto, vaffanculo, non è un'offesa, è un atteggiamento politico. No, ma ha ragione Vittorio, sempre. Ha ragione Vittorio. Quindi quello sarà il cattivo delle creature. Scusa, la Costa Magna è grillina, la Costa Magna è... Fammi parlare! Ma stai zitto, Marco, stai zitto un attimo, cretino. Aspetta. Ultimo punto che è capitato è questo: lo chiamo sfogo, sarà una macchietta, ma sono convinto che fosse giusto. Sull'evasione fiscale, intendo ripetere che io non sono disposto a pagare danari per distruggere il paesaggio con le pale eoliche pagate con le mie tasse. Non sono disposto a pagare l'orripilante Tribunale di Giustizia di Firenze. Quindi, quando dico di non pagare le tasse, è per evitare che idioti distruggano l'Italia spendendo le mie tasse. Sì, ho capito, però dire di non pagare le tasse non è bello. No, ti spiego quello che lui mi ha detto. Ma tu prendi soldi nero ogni tanto? Terzo tema è quello delle ragazze. Oltre a essere corrispondenti al modello ancora vigente in Italia per ragazzi di regioni come l'Abruzzo, più composte, che non vuol dire che salvano bene. Se tu decidi che quel modello merita la cacciata della Terco, che a sua volta è una donna, vuol dire che sei razzista verso le rumene, e che le rumene sono così per furbizia, per quello che ci pare, l'ho sentito, ma non è un modello che debba essere indicato come imitativo della donna, perché la persona è uguale uomo e donna, ma la donna, se non avesse la coscienza di essere quello che dicono quel decalogo, non si metterebbe lo smalto alle unghie, il rossetto sulla bocca, il trucco delle sopracciglia e delle ciglia, non si metterebbe fuori le tette, e tutto quello che fa sì che lei rappresenti quel modello, pensando di essere, ma tu hai scritto, e chiedendo però di essere rispettata come persona ti rispetto, e rispetto anche i nostri tutti, come figa, non capisco perché trovi inferiore quel modello. Dice, rimangono sessi, ma che dopo il parto. E cosa c'è di male? Non puoi cacciare qualcuno, perché dice una verità su quello che anche le nostre donne. Tu hai detto meglio una rumena, Montecitorio. Meglio una rumena a Montecitorio al posto della, come si chiama, della boldrina. Ma soprattutto l'idea che una donna esibisca delle parti del corpo deliberatamente facendo la femmina diventa una cosa definitiva per dire che quel modello non è insultante, salvo che non sia razzista contro le rumene. Le femministe che hanno deciso di vestirsi senza tacchi, ma una che porta i tacchi dolci, non vuole essere figa, mostra le caviglie, mostra i polpacci, mostra i seni, si mette il rossetto, si mette gli orecchini, e dovevo pensare no. Sì, scusami Vittorio, però voglio capire una cosa, due cose. Una, tu hai immagino di sì a questo punto, cioè tu prendi soldi in nero allora ogni tanto, siccome non vuoi pagare le tasse. No, ma io non è che non prendo soldi in nero, io ritengo che prendere i soldi in nero non sia un crimine, perché dobbiamo difenderci da uno Stato che distribuisce i soldi che io do loro in modo immondo contro lo Stato. E dunque ogni tanto lo fai, evidentemente. No, non prendo soldi in nero perché non posso farlo, ma voglio dire, sono convinto che non pagare le tasse sia una risposta lecita che contro quelli che usano i miei soldi per fare le cose più violente. Pensa soltanto, fare il nostro frettatore a vedere cosa hanno fatto a Piazza Verdi, alla Spezia, buttando giù 15 alberi secolari, ho capito. Degli archetti colorati. Senti, io non voglio pagare una lira per questi criminali. Senti, la Raggi in vacanza, che ne pensi? La Raggi in vacanza mi sembra un'altra caricatura, perché dopo che tu eri pronto a speculare... Vabbè, tu non vai mai in vacanza, per cui... No, io non vado mai in vacanza, però a parte che uno va in vacanza potrebbe non andarci, fare riposarsi, ma quando uno dice che è contro Tor di Valle e lo dice quando è all'opposizione e denuncia dalla procura, e poi la bomba, mi consentirai di essere una macchietta. Devo dirlo e lo dico ad alta voce. E poi i punti che ho voluto toccare sono quelli citati da lui. Sì, però aspetta, Marco è ancora lì, questo cretino. Marco, sei ancora lì. Puntualmente, come avevo detto, mi hai sfumato. No, ma sono qui, poi dillo. Talmente che è vero quello che dico, che era ma è vero cosa? Che forse, ma forse non era ancora basta con questa storia. Ma la tua voce nel video che hai messo su Facebook, lui. Sì, vabbè. Allora? Ma quello è stato un microfono che è entrata la mia voce nel microfono, cretino. Cretino, imbecille. Non sai niente, non sai nulla, non sai nulla. Perché Parenzo allora ha confermato. Vabbè, ma che vuoi ancora? Cosa vuoi? Cosa vuoi? No, ma io non l'ho capito, ma che ne scusi, voglio capire una cosa. Ma lei ha scusi. Ma chi l'ha detto? Per inculcare alla gente di ignorante e deficiente, che dopo un anno di Raggi voleva i miracoli, dopo che ma chi l'ha detto? Critichiamo i miracoli, ha fatto solo delle puttanate, non è un sindaco, è una disonesta, perché uno che non è capace di fare il sindaco è disonesto, non è quello che ruba, è solo quello. Chi non è capace di fare una cosa è disonesto, il vero politico incapace è che è il disonesto, è quello. Uno che non è capace di fare niente e ha bisogno del suggeritore, non è degno di fare il sindaco, impara, studia, legge per queste croce. Marco, comunque... incapace, ignorante, questa è incapace totale ed è pizzariata da Grillo che fa quello che deve fare lei. Marco, in otto mesi la Raggi. Ma si possono criticare le singole cose o no? Marco, ma non si può dire che non è così per colpa della Raggi. Ma chi l'ha detto? Voglio chiedere a questo ascoltatore, scusi, signor Marco. Marco, mi scusi, volevo fare una domanda. Ma la Raggi, per andare a sciare, ha chiesto a Beppe? O ha fatto una consultazione nella rete? Ha messo online che andava a sciare. Vabbè, ragazzi. Dice: dove vado a sciare? A San Moritz? No, devi andare a Cortina. L'ha messo online. L'ha messo online o no? L'ha messo online. Che Rondolino non chiama Renzi, io i Renziani no. Pubblichi. Pubblichi tutte le sue spese ora che è andata a sciare. Pubblichi sul sito tutte le sue spese. Pubblichi sul sito le spese. Fermi tutti. Ciao. Ragazzi, è semplice. Se volete parlare delle vostre striscioline di merda lasciate nel cesso dell'ufficio, o volete parlare delle scorregge che fanno i dottori durante le operazioni in ospedale, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlare delle vostre mogli ex mignotte, o volete umiliare Parenzo come ha fatto Natania su Twitter, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al super top. Allora andiamo in provincia di Como da Giorgio. Vai Giorgio, vai Giorgio. Sono io? Dimmi. Sì, ti volevo dire che in merito a quello che ha detto il sindaco di Cantù su Napoli, sì. Le mie risposte sono chiare. L'hai messo il casco oggi quando sei andato in moto? Sei andato tra in moto? Hai pagato l'assicurazione? L'hai divisa la pattumiera? L'hai messa la cintura di sicurezza? E per cui qui tutti continuano a dire Napoli, l'ha detto la Bindi per prima dicendo che c'è il negazionismo, Napoli è intoccabile, è una cosa assurda questa qua. Sì, allora lui ha detto che è sporca, inquinata, criminale, mafiosa, corrotta, degradata, clientelare, parassitaria, incivile. Ha ragione il sindaco quando dice che è una fogna. Ma tu sei di Cantù? Io sono di Cantù e sono... che problemi ci sono? No, per carità, amico, ho detto che sei un criminale. Giorgio Masocco, per cui non è che abbia problemi. Ah, il mitico Masocco, certo, il mitico Giorgio Masocco. Ma mi hanno chiamato una volta tuo figlio, che non so dov'è, all'estero. Vabbè. Sì, è giù in Australia, però, perché vabbè, è dovuto scappare da questo paese di merda. Vabbè, adesso non esageriamo, non è che per forza uno deve scappare. Noi siamo qui che combattiamo, nonostante un sacco di difetti che ha questo paese. Vabbè, dunque, secondo te, Giorgio di Cantù... Napoli è una fogna, che cos'è che ha detto? Una fogna infernale, come ha detto il cosiddetto. Ma è una metafora per dire che non pagano nulla, che non fanno nulla per essere civili. Non pagano civili. Nulla, qualcuno pagherà, dai. Non fanno nulla per essere civili. Quando uno non fa la raccolta differenziata e dice che loro sono cittadini, non è vero, perché non fanno la raccolta differenziata, sono degli incivili chi non lo fa. Va bene Giorgio, Michele è... da Napoli, vai Michele. Michele? Pronto? Dimmi Michele, dimmi. Salve. No, stavo ascoltando. Devi togliere però il viva voce. Devi togliere il viva voce, dai. L'ho tolto. Vai, dimmi. Ho tolto il viva voce. Dai, forza, vai, forza. Ok, volevo dire a quel signore di Cantù che ha parlato adesso e anche al sindaco, sì, che sì, magari abbiamo piccoli problemi, forse grandi problemi legati alle grandi città, ma mi consenta, state a Cantù, è normale che il signore è scappato in Australia, ci avete 4 gatti e 6 pecore, il problema più grave che avete è il gatto della signora Brambilla che è salita sull'albero. Ma stiamo scherzando, ma venite a Napoli che siamo la culla della civiltà. Vabbè, adesso sì, basta con queste parole vuote, la culla della civiltà, dai, su. Non mettiamo parole vuote, dai, parole vuote. No, dai. È vero. Vabbè, vero, Michele, vai, Marco da Lecco. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao David. Ciao. Ascolta, io intervenivo perché sentivo su col podcast, quindi vi sentivo qualche giorno fa, parlare appunto del discorso della RAI che ha messo le donne dell'est, sono le migliori e tutto quanto. Secondo me hanno sbagliato totalmente. Le migliori sono le asiatiche. Ma che vuol dire le migliori sono le asiatiche? Seguendo quella lista della, esatto, Perego? Soprattutto dal punto di vista sessuale. Adesso, amico mio, ma queste sono però generalizzazioni, cioè quelle che fanno bene sesso si possono trovare in Italia, in Asia, e per esperienza che ho avuto tu le migliori sono le asiatiche. Perché? Decisamente. Perché? Dimmi qualcosa di nuovo, dimmi una cosa particolare, dimmi una... Per esempio, ti faccio un esempio, stavamo, diciamo, facendo un po' di cose, diciamo, fellazio, mi stava facendo una fellazio, non riusciva. Sì. Non l'ho capito, su. Una pompa, dai, su. Una pompa, perfetto. Sì, allora... Non riusciva a metterlo tutto in bocca, no? Vabbè, adesso che c'è. Ma scusi, la signora asiatica. Alle 19 vuole raccontare questa cosa. E si è scusata che non riusciva a fare questa cosa. Beh, scusa però, amico mio, adesso non è che perché questa ragazza asiatica, di dov'è? Poi anche là le asiatiche, allora, l'Asia è grande, bravissimo, cioè, cos'è, giapponese, cos'è? Giapponese, una cinese e una coreana. Sì, ma qual è quella che non riusciva a fare l'operazione cinese, di cui prima? Cinese. La cinese non riusciva. Certo, ma sono problemi, eh? Sono problemi, non riusciva evidentemente per le tue dimensioni, evidentemente. No, è normale, sono normale, non mi è... Non sei come Corona, che sei... No, niente robe I suoi genitori ascoltano questa trasmissione, caro ascoltatore? i suoi genitori, faccio sentire il podcast, non ti preoccupare. Ah, ok, gliela faccia sentire. Se allora, caro Marco, allora la cinese si è io scusata di che cosa? Se un figlio cosa? Così spiegami. Mi vergognerei, posso dirti sì. Ma mio figlio, assolutamente, io farei non esagerare. Io gli darei una medaglia, scusa, sì. Abbi pazienza. Grazie. Scusami Marco, allora non ho capito bene. Allora, la cinese con cui tu ti accompagnavi. Abbiamo capito. Non riusciva a fare quell'operazione. Vedi che sto utilizzando una parola. Cioè, non riusciva a fare quell'operazione. Dunque, di questa cosa. Si è scusata. Benissimo. Si è scusata. Allora, da qui tu cosa la tua considerazione che, da questo episodio qual è? Che, meno male che il giornale non è ancora nato in stampa, va, che sennò bucavamo questa notizia. Che partono dal presupposto, almeno nell'esperienza che ho avuto io, di soddisfare al massimo l'uomo. Quindi quello è cioè, il loro secondo te le cinesi, obiettivo. Le cinesi da questo piccolo episodio che ci hai raccontato sarebbero addirittura si scusano nel caso in cui non riescono a soddisfare pienamente un uomo. Abbiamo capito. Esatto. Questa è la tua cosa. Esatto. Amico mio, ma che ne so. Cioè, Francesca da Roma, vai Francesca. Una testimonianza importante. Ciao Beppe. Dimmi Francesca, dimmi. No, niente, volevo dire che riguarda tutta questa questione sulle donne. Che no, però ti sento male, amica mia, ti sento male, malissimo ti sento molto male. Togli adesso? Un po' meglio, dai, vai. No, è che gli uomini italiani sono tirchissimi. Vabbè, ma che sono pure queste stronzate? Sono tirchi. Parenzo, per esempio, non è tirchio per niente. È vero, bravo, grazie. È vero, perciò si fa tutta questa questione delle donne. Vabbè, dai, è una puttanata. Non voglio. Cioè, già ne diciamo tante noi di puttana. Noi siamo autorizzati a dire le puttanate. Cioè, tu non sei autorizzata a dire banalità. Cioè, totali. Cioè, noi ne diciamo già abbastanza di banalità, e ne siamo consapevoli. Tu non puoi dire i maschi italiani sono diventati tu. Ma è una puttanata, dai. Ma non è una puttanata. Se ti vuoi, ti posso raccontare quello che succede a me e a tutte le amiche mie di continuo. Sì. Cioè, uomini che si fanno dividere il conto con la cassa, ti chiedono, prendi la cassa e per pagare te. Ma non solo è vero, ma chi ha incontrato? Dai, ma chi ha incontrato? Io mi sono fatto offrire poche volte la cena, caro Parenzo. Da una donna? Sì, pochissime volte. A però me è successo. Non è mai capitato. Ma sì, a me è successo. Mai sì. Successo. Sì, ma quando la differenza economica è molto ampia. Ah, molto tu ampia. Dici sì. Come quando... non si entra? Allora, solo perché una donna è ricca ti deve pagare, solo perché è indipendente. Quando uno è molto ricca, io dico, scusami, i soldi tu hai molti più soldi di me, a cena paghi tu. Cioè, quando una persona aveva una disponibilità economica molto più, mi è successo di andare, di uscire, di avere relazioni, di avere storie con persone con una disponibilità economica molto grande. Sì. Sinceramente, non ho mai pagato un cazzo. Ma come hai pagato? Beh, amico, mi scattavo la carta di credito. Cioè, tu applichi il welfare praticamente. No, il welfare state. Esatto. È l'unica ragione per stare con donne ricche. L'unica ragione per stare con donne ricche è essere ogni tanto mantenuti. Ma come? Mantenuti. Tu sei pazzo. Sì, assolutamente. Pagare tutto: cene, alberghi, cose, eccetera. Poi soddisfare ogni tanto, naturalmente, anche quando uno vuole, però fare un po' il gigolò di donne ricche, quando naturalmente ti va, non è che uno deve fare il gigolò apposta. Io l'ho fatto anche il gigolò per un brevissimo come periodo. Ma no, il gigolò, ho fatto... Sciocca la zanzara, no. Cruciani confessa. No, mantenere no, però... Ma lo gigolò in che senso? Che ti, cioè, hai fatto a pagamento l'amore con un delle... Un paio di volte mi sono fatto pagare, tempo veramente? Fa. Sì, mi sono fatto e pagare. E chi erano queste? No, continuiamo. Una aspetta, volta 500 euro, devo dire. Ma tempo fa, tanto tempo fa, una mi ha dato 500 euro per trombare, ma ragazzi, sciocca la zanzara, ma pazzesco, ma che pazzesco, ma dai. Che schifo, ma quanti anni aveva questa qua? Ma lo fai ancora Beppe? No, è da tempo che non è successo. È successo tempo fa, i primi anni che ero a Milano, una volta, no, ma che mi fai un'offerta? Ma di che? Ma non mi interessa. Una mi ha dato 500 euro per una trombata, ho detto, vabbè, fai 500 euro, vada. Cioè, incontrati in un bar, vuoi 500 euro? 500 il livello più basso della scala umana. 500 euro, bellissimo. Devo dire la verità, fu stupendo. Cioè, me li sono goduti tutti, 500 euro. Ah, sono uscito soddisfatto. Ho guadagnato 500 euro in un'ora e mezza. Strepitoso. Lasciativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La zanzara. Perché non vuoi più ascoltare la zanzara? Perché dice troppe parolacce. Che cazzo però! Shock. Becca la zanzara, Parenzo è eterosessuale. Allora ragazzi, ho definito prima. Allora vecchio mio, altre notizie dagli amici del quotidiano Libero, libero.it. Sì, notizia clamorosa, foto di D'Alema, hanno messo D'Alema che sbuffa, titolo: c'è andato di nascosto, virgola, ma non basta. Clamoroso, due punti. Dove beccano D'Alema? Uno cosa pensi? C'è cazzo, dove l'avranno beccato D'Alema? No, clamoroso, è una cosa pazzesca, dove andare? Alla sede del PD. Dice perché? Perché c'era una riunione al pian terreno, una riunione dichiarata intorno alle 18, D'Alema è stato visto alla sede del Nazareno in occasione di una riunione prevista per il gruppo. No, ma c'è qualcosa anche su di te, mi sembra, no? Sì, vabbè, quello non c'entra niente. No, no, dillo. C'è ma qualcosa no, su ti di leggo te. Tutte queste altre cose. No, dimmi una notizia su di te, qual è quella che hanno messo sul libro. No, ma adesso quello non ho visto. No, io, no, non l'hai visto, so, l'hai visto. Ti faccio vedere un'altra notizia invece. No, no, adesso Sara, la sexy piddina va dalla Gruber col seno di fuori, due punti. Pazzesco in diretta, ci va, ti sviene. Non è vero niente. Uno dice che non c'ha né il seno di fuori, né ci va, né ci va. Uno soprattutto dice: cazzo, ma Civati è svenuto in diretta, non lo sapevo, lo apprendo da Libero, apre, clicca sopra la notizia. Non c'è nulla. E capisci che non c'è nulla, non c'è né seno in diretta, c'è semplicemente un vestito particolare e Civati non è svenuto per nulla. Poi Parenzo umiliato da Natalia. No, ma non è hanno vero, scritto oddio, così: Parenzo umiliato. Ma non è vero. No, ma umiliato da chi? Ma che parlare? Allora ragazzi, ho definito il selfie di Antonio Razzi con Assad un'opera d'arte. Cattelan. Una cosa da vendere nei musei, da esporre nei musei. Sì. Perché a mio parere. Ma anche perché. Scusami, dimmi. Se ti interrompo, poi me ne vado perché sono anche molto stanco. No, non sto bene. Ma che cazzo sì, me ne no, frega, ma ti chiedo scusa, vai, guarda, me pazzito. Ne vado. Sono depresso, allora? Sto male. Comunque, Razzi fa le foto. Come si fa le foto al Colosseo? Cioè, tratta Assad come un souvenir. Questo è il punto. Dunque, ridicolizza perché il dittatore. Ma è l'arci italiano. Quello che quando vede una cosa non se ne dice: che cazzo è quello? È il Colosseo. Aspetta che gli faccio la foto. Ah, mi selfo con Assad. È uguale, cioè non c'è nessun intento politico, anzi è prepolitico, quello è il bello. Antonio Razzi con noi di ritorno da Damasco. Antonio, buonasera a tutti i radio. Senti che voce che c'hai distrutta, sei stanco morto. Ma quanto hai dormito gli ultimi due giorni, Antò? Guarda, 48 ore, in 48 ore forse un'ora, un'ora e mezza, detto di più no. Addirittura, un'ora e mezza perché? Scusa, perché hai dormito così poco? No? Scusa, sono arrivato domenica notte alle 3. Sì, alle 4 e mezza sarebbe dovuto partire per Damasco, perché siamo arrivati a Beirut. Sì. Dopo, lì, appena siamo arrivati, subito dovevamo andare al presidente Assad. Insomma, un casino. Tutta la giornata lì, dopo la notte fino a tarda. Sì. Fino a tarda, la mattina dovevamo dovuto partire per Aleppo. Insomma, un macello. La sera siamo ritornati. E poi? Arrivati all'aeroporto lì a Beirut. Subito siamo andati. Arrivati a mezzanotte. Alle 4 avevamo il volo. Siamo dovuti andare 2 ore prima. Insomma, un'ora e qualcosa. Siamo stati lì. Ho fatto la doccia e sono partito. Ma scusa, ma che almeno cazzo l'ha fatto fa sto giro? E quello mi dice anche mia moglie. Che ti ha detto tua moglie? Che cazzo? Mia moglie dice: ma che cazzo te lo fa fare? E poi magari ti picchiano pure per culo. Tu vai a rischiare pure la pelle. Ma guarda, vabbè, la pelle no, la pelle. Una volta tanto c'ha ragione mia moglie. Una volta tanto c'ha ragione tua moglie, cioè tu vai là, rischi la pelle, che poi rischi la pelle, dai, per modo di dire. E poi la gente, tu lo sai, che vede anche gente che scrive stronzate, perché purtroppo io dico al Signore perdono loro perché non sanno scrivere e non sanno quelli che scrivono. Addirittura chi? Signor Battista ha detto il selfie osceno sul Corriere della Sera, il selfie osceno di Razzi con quello che ha gasato 200.000 persone o migliaia di persone. A me mi ritorna in mente Trump. Trump, che quando dice che i media fanno sempre la politica ai grandi miliardari. Lui è miliardario, però non ha fatto tutto per la Clinton, lo sappiamo tutti quanti. Chi? No? Chi? Chi? Tutti i giornalisti, tutte i giornalisti, le grandi assicurazioni, banche. Ecco, ma che c'entra? Io sono fiducioso di Trump, sarà un grande presidente. Vabbè, ma che c'entra Trump adesso? Ma adesso ritorniamo a noi. Ma io ho capito, il Corriere della Sera in prima pagina ha detto che tu hai fatto il selfie dell'orrore. Il selfie dell'orrore. Ma scusa, Giuseppe, io quando uno mi dice, io ne faccio, tu lo sai, decine di fotografie al giorno, sì, del, vedo, vabbè, certo, quella la sa. Io non lo sono, nemmeno chi lo conosce quella gente, beh, vengono tutti. Sì. Un presidente come lui, dopo che abbiamo finito tutto, abbiamo finito il dialogo, tre ore che non ce l'ha dedicato mai nessuno, vabbè, tre ore a parlare con lui. Vabbè, non hai capito, non si è capito un cazzo, tre ore non si è capito. La Costituzione anche nuovo che sta preparando, che sta facendo, eccetera, eccetera. Mi chiede, e lì Razzi dice... facciamoci un selfie. Mi è venuto da ridere, cazzo, dico, il presidente mi chiede a me di fare un selfie con lui. Dico, ah, lui l'ha chiesto. Lui ha chiesto. Lui me l'ha chiesto e dico, perché no? Cioè, lui sapeva, signor Razzi, come ha detto, in che lingua si è espresso? No, ha detto, lei è molto importante, dice, facciamo un selfie. Te. Ma scusi, in che lingua? In che lingua? In che lingua parlava, signor Assad? Ah? Signor Assad, in che lingua parlava? In inglese. Cioè, Mr. Razzi, you are very important. Ma tanto, quando dice selfie, ormai chi è che se lo capisce? No, beh, certo. Assad, comunque, ti ha cercato lui in pratica. Non ti ha cercato più lui. I dittatori, sì, una volta. Sì, non ci sono più i dittatori. Stavamo uscendo dalla sala. Sì, e poi già avevamo fatto le fotografie di gruppo, eccetera, eccetera. Poi mi ha detto, Mr. Razzi, selfie, detto, come no? Perché in fondo anche Assad ha un po' questa politica del teledig d'amig, fatti i cazzi tuoi. Questo sì, Assad è un po', ragiona, sì, fateveli i cazzi vostri. Teledig d'amig. Lui ha visto in me una faccia d'angelo. Ecco, sì, può darsi che abbia visto in te una. Sulla terra del Signore si vede che abbia visto come un signore. Ma che vuoi dire a questi che ti hanno criticato al Corriere della Sera? Che vuoi dire? Che si devono fare i cazzi suoi loro? Che vuoi dire a questi? Ma guarda, io avevo sempre apprezzato il Corriere della Sera, pensavo che era un giornale non, diciamo, politico, ma da ogni parte. Perché era una cosa. Lo leggevo molto volentieri. Oggi, amico mio, manco se me paga. E Franco Di Mare che ti dice che cosa c'hai da ridere a fare il selfie con sé? Lui è, come si dice, una arme persona, una povera persona, perché si è voluto vendicare più due o tre anni fa, perché io ho fatto una lettera quando lui ha parlato male di me, quando ha dato Salvini, ha invitato Salvini lì, e quando Salvini è andato in Corea gli ha detto, sì, ma vai con Razzi. Scusi, ma che cazzo deve andare? Scusi, ma non lo sai che io sono lì di casa? Vabbè, ma ti considera un poveraccio, dai, ti considero un cretino, fortuna, Franco Di Mare, dai. Per fortuna Matteo Salvini, che è un signore, ha visto, ha detto, oh, ma qui sei trattato. Scusa, però Antò, il punto è, anche il centro di Pescara, giornale locale, ha detto, non so se hai letto oggi, prima pagina, dice che bisogna ignorarti quando fai queste cose. Io oggi... Ma perché non li mandi a fare in culo? Perché no, lei... ma ascolta, te lo dico da amico. Dimmi. Oggi il mio collaboratore, che ha fatto il tuo collaboratore? Ha chiamato, gli ho detto, chiama il suo, perché io sono stanco morto, gli ho detto, chiama il direttore del centro. Dice, chiamalo e digli, come mai dice, ha scritto questa canzone, che poi ha fatto un libro e ci ha messo anche la mia faccia su un libro dei vitalizi, hai capito? Siamo andati in sessione, amico Lucazzi, dico tutta l'espressione, poi mi fa gli ha detto ma scusi, lei è amico del senatore, il senatore Razzi lo conosce? Io non conosco il senatore Razzi. Ma come non lo conosco? Ha fatto finta di non conoscere. Ma il colmo del colmo, ma qui siamo all'ignoranza totale. Addirittura, cioè il direttore del centro di Pescara è un ignorante totale. Guarda, questi devono smettere. Questi chi? Te lo dico da amico. Devono chiudere. Questi pensano che sta parlando con un pagliaccio, io che sarei un pagliaccio. Sì, ma io dico, amico mio, di magna di sala, perché arriva tutto quello che ho fatto io e dove sono arrivato io. Ma glielo dico pure all'altro. Ma e questi di Pescara scrivono tutte cazzate, questi qua del centro di Pescara. Mi ha chiamato, guardi, io non lo leggo più. Mi ha chiamato, e te sai, Antonio, dobbiamo parlare. Ma vattene a parlare con la cammina, va. Ma per favore, va. A me tu muovi così, dite a me a croce si finite di campane, sento che io non ti voglio sentire più. Con me non ti vuole vedere più, con me si finite di campare. No, io gli ho detto non lo voglio vedere più. Sì, non lo vuoi più vedere. Il centro è il direttore, per me è finito. Morto. Anche perché prima pubblicano pagine su di te e poi dice che bisogna ignorarti. Ma fangulo, no. Scusa, ma metti che io... Dunque tu non devi chiedere scusa di nulla per questo selfie che hai fatto con Assad. Ma io non devo chiedere scusa. Io, se avessi ammazzato qualcuno, dice, scusa, mi sono sbagliato, ho ammazzato qualcuno. Beh, però signor Assad è accusato di aver ammazzato un sacco di gente. Sicuro. No, non è sicuro. È un liberale, non è sicuro. Lo dicono, ma non è sicuro. Ma dicono tutte stronzate, molte cose. No, beh, adesso però, è chiaro che se è vero, su Assad, è vero, anch'io. Però non si sa se è vero, non si sa se è vero. Ma a te ti è sembrato una brava persona, un ottimo com'è secondo te? Un ottimo statista, com'è? È stato eletto veramente quando l'ho visto che all'entrata ha salutato uno per uno, ha dato la mano a uno per uno. Beh, per forza, che doveva fare? Eravate ospite, è evidente. Ho detto, no? Questo si somiglia a Fazio. Assomiglia? A Fabio Fazio. È vero, effettivamente assomiglia un po'. Assomiglia a Fazio, è vero. Ma siete pazzi? No, ma non è sbagliato, è vero, assomiglia un po' a Fabio Fazio, non è... Io l'ho visto e ho detto, questo mi sembra Fabio Fazio. Comunque, non avrà la mano, ci mancherebbe altro. Ma che cosa hai... Scusa, adesso non voglio essere pignolo, ma che cosa hai capito da questa missione parlamentare che avete fatto? Ma che gliene frega, lui è andato là a informarsi, a fare... Guarda, quando la Russia, e dopo abbiamo visitato la parte russa, la Russia. Quando il vicepresidente della Duma e il presidente della commissione esteri della Duma ci ha invitato, no? Sono amici di Assad, certo, i russi, e ci stavano della Repubblica Ceca. Vabbè, ma che hai capito di tutto questo vertice? Serbia, Belgio e Spagna. Vabbè, ma che hai capito da questo incontro? Cioè, Assad è un uomo, è l'uomo giusto per risolvere questa crisi con l'ISIS, secondo te? Sì. Ma guarda, è uno che ha detto che lui sta combattendo l'ISIS e ha detto, certo, questo... tutti gli attacchi. Ha respinto. Dunque bisogna appoggiare Assad. Però con la Russia, perché senza la Russia dove... Appunto, bisogna appoggiare Assad. Dici, bisogna appoggiare chi fa le cose giuste e chi fa le cose per... Senti, la prossima foto, quale altro tiranno? Perché tu hai fatto le foto con la Corea del Kim Nord. Jong-sun. In Corea del Nord. Assad, adesso ci manca qualcun altro, amico mio, ma è una serie fantastica, è una roba strepitosa. Io dico, un'opera d'arte, quel selfie là è un'opera d'arte, amico mio. Io domani lo scriverò dicendo che Razzi ha creato un'opera d'arte, quel selfie lì è un selfie straordinario, ragazzi, straordinario. Dillo, ti prego, è Cattelan. Guarda, che quando un presidente della Siria, perché è un presidente della questo Siria, non c'è dubbio. È una brava, allora, alla fine è una brava persona. Tu pensi che sia una brava persona? No, lo so perché non ho potuto. Però lui ha parlato della democrazia, che è il suo popolo, che lui vuole cose democrazia, e questo mi fa piacere, perché questo è la democrazia. Lui è sincero, è un uomo sincero. È un uomo che sta preparando la Costituzione, che sta... E io gli ho detto, da solo la sta preparando. Poi è intervenuto per la Costituzione. Ho detto, caro Presidente, suo papà era bravissimo, lei è giovane, ha ancora molto da fare, e se prepara una nuova Costituzione dove il mondo intero lo guarda e copia la nostra Costituzione italiana, perché è una delle più belle, non c'è dubbio. Quella della Germania, quella della Spagna, e poi fa un resoconto. Ma hai sentito Berlusconi? No, non l'ho sentito. Non l'hai sentito, però, sarà d'accordo, sicuramente sarà d'accordo con quello. Però abbiamo parlato anche di Berlusconi, lui ha detto che il presidente Berlusconi è una grande persona per l'Italia. Il signor Assad ha detto. Dice con Putin avevano avuto una bella cosa, e che diciamo insieme... stavano salvando proprio l'umanità. Ha detto Assad così. No, perché da quando è scomparso Saddam Hussein e Gheddafi abbiamo avuto tutti questi problemi. Non si sentiva mai niente. No, si stava meglio con Saddam Hussein e Gheddafi, dici tu. È chiaro. Signor Saddam Hussein, amico mio, il signor Saddam Hussein non era proprio una brava persona, però io non lo conosco, non lo so. Ma se non era è che non lo conosco, non è che la conosce, è da capire chi. Io ti posso dire che il mondo era più tranquillo. Con i due capi, sia della Libia e sia dell'Iraq. Stavano tutti tranquilli. Beh, insomma, quelli all'interno, gli oppositori, non stavano così tranquilli. Tanto finivano un po' in galera, uccisi. Tanto, ti abbraccio. Ragazzo mio, hai fatto un'opera d'arte con questo selfie. Lo devi rivendicare. L'opera d'arte di Razzi. L'opera d'arte, non gli rompete i coglioni a quest'uomo che vi fa un culo così. È nato, è arrivato in politica con i cartoni, con le pezze al culo. Ciao, Antonio. Lo sai questo, bravo. Sempre. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. Cruciani, mi sto fumando una canna mentre ascolto i podcast della Zanzara in balcone da mio padre, ma lui non mi può scavare. Siamo al top. Cruciani, più spazio a Parenzo, più spazio alla maggioranza silenziosa. Noi siamo il top. Poi ragazzi, l'italiano musulmano integralista camionista, per cortesia, cazzo, toglietegli almeno il camion, toglietegli il camion, cazzo. Dopo settimane vado a trovare mia mamma a cena, qua vado a lavarmi le mie mani, mi metto comodo e a un certo punto mi balena una strana idea. La porta non la chiudo perché siamo in famiglia e allora giù i pantaloni, si piscia nel lavandino. Mia madre apre pensando che io fossi in un'altra stanza. Che stai facendo? E io, ma esperimento antropologico. Nella mia vita sono stato a letto con polacche, russe, moldave, rumene, lettoni, estoni, ma devo dire che quelle che scopano meglio non sono le donne dell'est, ma sono le filippine. Vi spiego io adesso perché le donne dell'est hanno così voglia di scopare, perché sono abituate a essere scopate, ecco la differenza, cari miei. Questo è il punto, non è la donna, è l'uomo. Cioè, se la donna italiana non ha voglia di scopare è perché l'uomo italiano dorme. Tutto là? Punto. Perché parlavo con una mia conoscente macedone e lei mi ha detto: mio marito torna a casa ogni sera alle 8, si alza alle 4 di mattina per andare a lavorare, fa il muratore, ma questo qui ogni giorno, mattina e sera, è giù. Ecco, trovatemi un altro italiano che lo fa. Ciao. Anche questa mi sembra una generalizzazione. Gli uomini dell'est sono più attivi sessualmente degli uomini italiani. Ragazzi, ma perché? Cioè, veramente, sono delle generalizzazioni. Ma è no, evidente. Ma sono luoghi comuni normali, ma di cui si discute tranquillamente senza chiudere i programmi. Ma su questo ad non esempio, c'è ad esempio, dimmi, facciamo dimmi. Un altro esempio con questa poca voce che mi rimane. Se avessero in un'altra trasmissione televisiva, non dirò quale, hanno sempre del servizio pubblico, hanno chiesto se le donne del sud sono più calienti delle donne del nord. Sì. Oppure, chiudiamo pure quella. Chiudiamo quella. Oppure il bacio alla francese, ad esempio. Perché le francesi baciano meglio delle italiane? Grave offesa. No, grave. No. Offesa perché si parla del bacio delle donne. Offesa sessista. Mi sembra una roba assurda. Voglio ricordare per l'ennesima volta, non voglio più parlare di questa cosa, che sono state mandate a casa in tutto 16 donne e 10 uomini, 26 persone dopo l'intemerata della Boldrini e di altre persone ancora. Per colpa, poi alla fine la decisione è quella del direttore generale della RAI, Gennaro Caserta. Esatto. Ma la notizia è un'altra, caro Parenzo. C'è un uomo tra di noi che per anni ha fatto l'imitazione, il travestimento, con tanto di travestimento, della signora Cicciolina. Fra poco faccio ascolto della signora Cicciolina. Sì, faceva dei finti pompini con faceva dei finti pompini con ovviamente non veri, ma con dei piselli finti, travestendosi da Cicciolina prima, e andava anche a vedere gli spettacoli con il boa di Cicciolina. Ma chi è sto maiale, scusa? Beh, fra poco te lo presento. Intanto Gennaro da Caserta. Gennaro. Eccolo. Dimmi Gennaro. Senti, dimmi. Giuseppe, la prima cosa ti devo chiedere, ma è vera quella cosa che hai detto, che tu hai scopato per 500 euro? Una volta è successo, dai, su, amico mio, una volta è successo. Ma che una stronzata del genere non si è mai sentita da quando l'uomo l'ha inventata, la stronzata. Ma perché? È pieno di gente che fa questo di mestiere, l'ho fatto io una volta, adesso lo scandalo, lo scandalo. Che non sei manco bello, pieno 60 righe in davanti, ma prima tu ti ha creato con 60 tendi. Sei un tipo, l'ho visto per televisione, fai mezzo schifo, l'altro mezzo non si sapeva che fine ha fatto. Sì, vabbè, poi? Senti, però volevo dire, il mio intervento era su un'altra cosa, no? Allora, io quando ero ragazzino c'era un vecchietto, no, che faceva, mi raccontava sempre dai tempi dei fascisti, che adesso servirebbe un poco. Cosa servirebbe, il fascismo? Eh no, sai perché? Ma un pochino, ma non essere troppo estremista. Sì, ma che allora, cosa serve? Non ho capito, un po' di fascismo, cioè? Lo sai perché? Però se ci arrivo, perché lui mi diceva che faceva il mediatore di mestiere, no? Stava sempre in piazza. Allora? E praticamente lui, passarono una volta i fascisti, due volte, non gli dicevano, la terza volta si ferma e dice: ma che stai facendo sempre in piazza? Dice: io faccio lavoro qua, cioè il lavoro. E che lavoro fai? Vestito pulito, vestito ben vestito? Dice: io faccio il lavoro di mediazione, uno vende, l'altro compra, e io insomma medio in mezzo. I fascisti l'hanno guardato in faccia. Domani, se tu seriamente non vai a lavorare, vabbè, ma che c'entra questo? Non ho capito cosa c'entra questo. No, e ti ripeto, ci sono tanti mucchi di extracomunitari, per carità, che la cultura mussoliniana era un poco estremista, e non dico. Però, come un po' estremista, cosa sta dicendo? È una dittatura. Gli extracomunitari che tutta la giornata non fanno nulla, bevono birre. Cosa bisognerebbe fare? Cosa bisognerebbe fare? Lo sto chiedendo alle istituzioni, no? Dovrebbero gestire un po' migliore. Tutti gli immigrati che stanno senza fare niente bevono le birre. Ma dove sei? Dalla vostra parte? Dove sei? In certe province, che adesso non sto dicendo, diciamo, della Campania, province della Campania, vienici un po' e ti faccio vedere che realtà ci sta. E allora che cosa bisognerebbe fare? Mazzolate, che cosa bisognerebbe fare? No, per carità. Vabbè, Gennaro, mi hai rotto i coglioni. Mariasca da Napoli, dai, Mariasca. Ma dove c'è? Ciao, non ce l'hai nemmeno i coglioni. Mariasca, vai. Ciao Giuseppe, allora, io chiamavo in merito al, diciamo, al fatto di quel signore che ha chiamato da Cantù di Napoli. Sì, le dichiarazioni del sindaco di Cantù, esatto, che dovremmo avere dopo le 20:30 qui, per cui rimanete qui, il sindaco di Cantù in collegamento, vai. Mi piacerebbe parlarci col signore. Vabbè, vai, dimmi. No, allora io dicevo, io non sono il tipo che chiama, diciamo, e parla di Napoli, che piangiamo perché mi dà fastidio. È un po' di pianisteo, cioè, è grande pianisteo. Ragazzi, le dichiarazioni del sindaco di Cantù sono delle dichiarazioni di un personaggio certamente controverso, molto forti, in alcuni casi condivisibili. Uno dice: perché parla il sindaco di Cantù? Appunto, un'altra esatto, vicenda questa c'è? Qua. Comunque, il fatto di essere stato subissato, massacrato di minacce di morte e di insulti, questo ovviamente dimostra no, ma... ancora una volta la reazione assurda di certi napoletani. Quando si presenta Napoli conto. È l'unica città d'Italia che ha ancora questa passione. Se tu io non dici mai Roma è una nessuno. Fogna, quando dici, sì. Se dici Roma è una fogna, i romani chiama. Non gliene frega una mazza. Nulla, Napoli nulla. Ti sommergono di insulti. Mariasca, allora? Non interessa, perché non mi piace fare polemiche su queste cose. Vabbè, allora. Però, giustamente, un po' mi brucia che mi alzo la mattina. Ma che cazzo te ne frega del sindaco di Cantù? Ma che te ne frega del sindaco di Cantù? Anche questo e vabbè, tu sei una persona onesta. €900 di assicurazione, ma come me ci sono tantissimi. E come mai le assicurazioni costano di più a Napoli rispetto ad altri posti? E come mai? E come mai le assicurazioni costano di più? E come mai? Lo so, perché alcuni tuoi concittadini sono disonesti. Questo è il punto. Alcuni miei concittadini e dunque le assicurazioni costano di più. Costano di più. Sì, ho capito, va bene, però non è neanche giusto che poi, diciamo, fare tutto il bonfascio di persone che comunque come me sono per bene, fanno la differenziata, però portano il casco, mettono la cintura. Chi ha detto niente, per carità. Pochino, quando senti queste cose, anche una come me... Dunque che sei incazzata col sindaco di Cantù, sei incazzata con una bella... Ma con si può figura del sindaco di Cantù, che chi cacchio se ne frega, con, appunto, anche tante persone fottitene, che no? Pensano fottitene, come, continua come a fare il tuo dovere, continua a fare perché il tuo dovere e fottitene. Va bene, ciao Mariasca, ciao. Va bene, ciao caro. Andromercu si travestiva da cicciolina, ragazzi. Ma ho visto delle foto. Io avevo già capito che il ragazzo era un po' uno scombinato. Sconvolgenti. Andromercu mentre fa un finto, tra parentesi, finto pompino. Vabbè, ma adesso non occorre andare proprio nei particolari. Beh caro Andre, è vero, però mi hai fatto vedere oggi delle foto che ti ha mandato tua moglie sì. Del tuo passato che risale alla moglie fine. L'ha mandate? Sì, le ha mandate lui, ragazzi, lui gliela ha chieste. Situazione è no, lui gliela ha chieste, mi mandi per favore quelle foto. A dire la verità, no, precisazione, me le ha mandate un'amica di mia moglie. Vabbè, un'amica di tua moglie, sì, vabbè, pure. Uguale. Sì. Ma non voglio sapere niente. No, non vogliamo sapere nulla dei dettagli delle relazioni che hai tu con questa amica di tua moglie, non lo vogliamo sapere. Però ti ha mandato queste foto, foto in cui davvero Parenzo c'è una finta cicciolina, un travestimento di Andro della fine degli anni '80, in cui faceva cicciolina che fa, ti giuro, una fellazio. Abbiamo capito. Ah, ovviamente finto, non credo che tu l'abbia fatto sul serio. Direi proprio di no, signor Cruciani. No. Il signor Andro, ti travestivi da cicciolina, facevi anche l'imitazione di cicciolina. Sì. Ma anche col boa la facevi? Ma certo. Boa finto, c'avevi un boa finto. Che doveva avere il boa? E che ne so, tutto è possibile. Tu hai fatto il travestimento di cicciolina col boa addosso, ma dove? Certamente. Nei teatri cicciolino nei teatri di Trieste? Sì. Dove sì. Lo facevi? Nei teatri di Trieste? Sì, esattamente. Ed era qualcosa che aveva un discreto successo locale oppure no? Sì, oppure ti tiravano no, una roba addosso tipo Richard Benson. No, assolutamente, anzi, grandissimo successo locale. La missione di Andro Mercù, sì. Facevo l'imitazione, il travestimento di Cicciolina, sì. Con vedo il boa addosso. Vedo già i titoli di Libero domani, sciocca la Zanzara, alla Zanzara si travestono da Cicciolina e giocano col boa. No, veramente non è così, è signor Mercù che 20 anni fa però si io travestiva. Mi sono... No, scusami Davide, però sì, molto professionale, io sono andato a vedere uno spettacolo, sì, di Cicciolina, ero tra le altre cose anche ancora minorenne, ma insomma ci ho sperato, sono entrato lo stesso, ho fatto e poi da lì bassa. Poi e così io ho imparato meglio seguendo l'artista da vicino. Ma com'è che faceva questa imitazione, perché non mi piaceva molto, com'è che facevi quando facevi Cicciolino? Ma vabbè, non la faccio da una 30 anni più o meno, dimmi un po' com'è. Questo è il mio serpente pito pito, Cicciolino Cicciolino cruciale. Pito pito, è vero, fermi tutti, ciao, grazie Andro, ciao, ciao. Adesso Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Oh, non me ne riesco a fare una ragione. Ancora sto a pensare, papà, che fa schi Italia, poveri lavoratori, mentre li mortacci loro. E il Monsignore ci guardava tutti, a tutti i dipendenti, ci diceva: dietro di voi c'è una famiglia, io sono responsabile. Una settimana dopo ci dice di abbassarci lo stipendio e poi ci manda tutti a casa. L'anima degli mortacci loro, di tutti quanti, tutti! Di Schi Italia. Allora, il sindaco di Cantù, Bizzozero, io proverei a chiamarlo, speriamo sia ancora in ufficio, il signor Bizzozero. Claudio Bizzozero ha scritto, i napoletani su Napoli ha scritto che è una fogna infernale, e in realtà era un modo per attaccare Salvini, ma insomma la vicenda è più complessa, la sostanza è questa però. Ha detto Napoli è una fogna infernale, poi ha aggiunto successivamente un'altra roba. Ha detto Napoli, eccolo qua, Napoli è sporca, inquinata, criminale, mafiosa, corrotta, degradante, clientelare, parassitaria, incivile. I napoletani non amano sentirselo dire, preferiscono sostituire la realtà con le descrizioni di pura fantasia. Vai. Comune di Cantù, buonasera. Mi dà l'ufficio del sindaco, buonasera. Come? L'ufficio del sindaco, per favore. Sì, un attimo. Questa dove è? Di Napoli? È occupato. Ma lei è di Napoli? No, questo è il comune di Cantù, forse ha sbagliato il numero. No, sì, ho capito, ma lei è di Napoli? No, sono di Puglia. È di Puglia, bene. Sì, prova. Provi. Pronto? Caro sindaco, amico mio, come sta? Boh. Eh? Stavo meglio ieri. Amico mio, scusami, adesso per carità. Come combatte il nostro sindaco? Io ho inventato il titolo piagnisteo napoletano. Dunque, posso capire la tua situazione, no? La posso capire benissimo. Ora però non ti puoi stupire che sei subissato da insulti. No, non mi stupisco. Ma andresti a Napoli domani mattina tu? Ma no, ci sono molte città in cui mi piace andare, ma non Napoli. Cioè a Napoli non ci sei mai andato? Ci sono stato più volte, ma non mi piace, è una città che non mi piace. L'ultima volta la trovo una città purtroppo, non è che sono felice se è una città in quelle condizioni, però è una città infernale. No, tu hai detto anche una fogna infernale, Una fogna. Poi è una città pulita secondo lei? No, poi insomma, in alcuni periodi magari è stata più È una città paragonabile a Zurigo o a Calcutta, mi dica. Mi dica lei, a Calcutta? Assolutamente. Calcutta. Come assolutamente? Sono quartieri che stanno in condizioni. Ma Calcutta? Sì, esatto. Ma come esatto? Ma guardi, se lei ritiene che il politicamente corretto comporti che ci sono cose che non si debbono dire, allora va bene. Io invece ritengo che sia politicamente corretto dire la verità. Le faccio un esempio. Sì. Calcutta, mi pare. Toccare alcune cose in Italia, e fra queste Napoli, è come parlare, spesso avete ospitato persone che l'hanno fatto, sì, come no, certo. Parlare di Maometto sì. Per gli integralisti musulmani. Io noto molto integralismo da parte di qualche napoletano. Però scusi sindaco, lei ha elencato una serie di cose: sporca, inquinata, criminale, mafiosa, corrotta. Posso aver sbagliato nell'aver utilizzato quella parola? Quale parola? La parola fogna. Capisco che abbia ferito la sensibilità di molti, mi dispiace, perché non era mia intenzione ferire la sensibilità di nessuno, ma era mia intenzione dire quella che è, a mio avviso, una verità. Però quando uno dice fogna significa che Napoli è praticamente una discarica molto sporca. Fatemi capire questo, amici miei. Sì. Devo capire perché il sindaco di Cantù, che è un rispettabilissimo comune della Lombardia, si deve occupare di com'è Napoli. Cioè, questo è anche una roba particolare. Perché lei si occupa di Napoli? Perché il sindaco di Cantù? Questa è una risposta facile, insomma, dovesse, non so, forse io sono stato ospite di una trasmissione, avrei dovuto in quella trasmissione, così m'era stato detto, incontrarmi con Salvini, invece poi sono stato all'ultimo momento spostato nella seconda parte. Sì. Ho ascoltato però in esterna, non ero in studio, le considerazioni di Salvini, che alcune delle quali mi facevano veramente, lasciamo perdere cosa mi producevano. Cioè, secondo lei Salvini è un traditore del Nord? È un traditore del Nord, Salvini? Ma su questo è evidente, assolutamente, sì, ma è nelle cose anche questo, possiamo anche non dirlo. Lei l'ha detto, realtà, un leader nazional napolitano, com'è che l'ha definito? Nazional partenopeo, ma lui come tale si definisce, vuole fare presidente del Consiglio, va a prendere per cui la sua critica da Napoli prende spunto da questa roba di Salvini? No, dal fatto che lui ha detto è casa mia, allora io lì sono partito. Invece io personalmente, che sono lombardo come lo è Salvini, non mi sento affatto a casa a Napoli, non è casa mia resta questa, la mia terra resta questa. Lei vorrebbe Napoli staccata dall'Italia? No, io vorrei la Lombardia staccata all'Italia. Cioè, vorrebbe nemmeno la separazione del Nord, ma la separazione della Lombardia? Sì, assolutamente, non c'è più, guardi, ma io cioè, Lombardia è stato autonomo, autonomo. Guardi. Lei le tasse le paga? È proprio per questo, siccome... Ma le paga o no le tasse lei? Assolutamente sì, ma scusi, ma e vorrebbe non pagarle? No, io vorrei pagare le tasse alla Lombardia, ad uno Stato che poi i soldi utilizzasse bene. E vorrei che le tasse che io pago, che sono troppe, dovrebbero essere molto meno, restassero al servizio del mio territorio. Lei ha paura, avrebbe paura di andare a Napoli? No, ma guardi, io a lei ha detto che non ci va proprio, per cui... Non ci vado proprio, non è un posto che rientra nelle mie, diciamo... Ma guarda che è bella Napoli, è bellissima, bellissima Napoli. Ma guardi, non metto in dubbio a ciascuno... Però la bellezza gusti. è rovinata ciascuno da ha i propri gusti. Cioè lei preferisce Cantù a Napoli? È una città probabilmente molto bella, un tempo lo è sicuramente, ha a disposizione un patrimonio storico, ambientale, non comune, patrimonio UNESCO, peccato che venga rovinata in questo modo. È una città sporca ed è sporca, non paragonabile a Zurigo, ho scritto anche, io preferisco guardare come immagine... Cioè una baraccopoli praticamente, una baraccopoli. Ci sono delle baraccopoli, certo. Ma le baraccopoli... Perché non ci sono le baraccopoli a Napoli? Sì, è pieno. Non so. In vacanza a Napoli non ci va. Non vai in vacanza. No, ma a guardi, no. No, glielo chiedo. Non vai in vacanza a Napoli. Mai a Napoli, no. Mai a Napoli. Vabbè, mai a Napoli. Ma scusi, ma perché devo andare a bagnarmi in un mare che è iperinquinato? Cerco di trovare. Cosa c'entra? Ma a Capri è mai stato a Capri? Che ci va a fare? Ci va per bagnarmi. Vado a Capri a farmi spennare dai commercianti di Capri, che fanno benissimo a far pagare chi può permetterselo. Ma che cosa sta dicendo? Perché a Venezia non si spende tanto? Ma che cazzo dice, sindaco? Scusi, non mi faccio andare via. Se la butta adesso. Vabbè, ma la Capri oggettivamente è cara, però non è ma che perché sia... Venezia non è cara? Ma che dite, ragazzi? Sì, anche il nord, certamente. Allora, no, guardi, a Venezia ci si arriva con pochi soldi, a Capri già il fatto di doverci arrivare costa un po' di più per noi. No, ma scusi, perché a Venezia. Vabbè, non ma adesso si... guardi, non sì, vabbè, comunque... è una città piena di criminalità, di illegalità, di corruzione, estremamente sporca, e cioè tutte le cose che ho scritto. Ora, lo si può dire certamente, incivile, perché non è che vivo incivile, su Marte, incivile. Beh, certo, scusi, io ho provato... Però, scusi, lei sta parlando di una città praticamente, di una città da commissariare, da mandare all'esercito, cioè circondare con le forze armate, non lo so, cioè uno dice sporca, inquinata, criminale, mafiosa, corrotta, degradata, clientelare, parassitaria, incivile, oltre che recuperare una città controllata dalla camorra, ma scusi, che cosa combina? Va bene, sindaco, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. A presto, arrivederci. Saluti. Allora, devo dirti la verità, caro Parenzo, facendo questa intervista adesso, te lo voglio dire, non posso dare tutti i torti al sindaco di Cantù, perché alla fine il politicamente scorretto è proprio di questa trasmissione. Beh, sì, ho capito. Dire ma... fogna infernale, ma non lasciamoci ma però condizionare. Sindaco, ma chi se ne frega, il sindaco di Cantù non è il sindaco. Cioè, ma poi anche se è il sindaco, allora uno perché diventa sindaco non può dire quello che pensa, non ho capito. Allora, lui ha detto è una fogna infernale, poi ha elencato una serie di cose che sono, ovviamente non è tutto così, però sono dei tratti importanti di quella città. Beh, non c'è dubbio, se io tu dici capisco, sporca, è sporca, sì, è sporca. Altre città lo sono, sicuramente. Inquinata, sì, è inquinata. Criminale, criminale, c'è la camorra che domina. Mafiosa, sì, camorristica. Corrotta, certamente corrotta, ci sono un sacco di inchieste, eccetera. Degradata, sì, ma non si capisce perché queste considerazioni importanti. Clientelare, sì, clientelare. Parassitaria, guardiamo i finti invalidi, vogliamo guardare i finti invalidi. E va bene, poi incivile, sì, c'ha tratti di inciviltà. Tutte queste cose assieme sono vere o non sono vere? Sì, sono vere. Sono concentrate nello stesso luogo o no? Sì, sono concentrate nello stesso luogo. Non ha tutti i torti, non ha tutti i torti, dai. Non ha tutti i torti. Poi lascia perdere il fatto che ne fa una campagna inspiegabile, però non ha tutti i torti, non ha tutti i torti. I napoletani la devono smettere di minacciare le persone che dicono quello che pensano sulla loro città. Se dicono che Cantù fa schifo, non è che i canturini prendono i mitra in mano, sì, esatto, e li minacciano. Questo, i mitra non li vedono. Ma per dire, una metafora, i mitra qualche volta li utilizzano i signori di Napoli, i ragazzini di Napoli utilizzano anche i mitra. Manola da Pescara, vai, la signora Manola. Ciao a tutti, buonasera. Dimmi, Manola. Allora, io volevo intervenire a proposito del soliloquio che ha fatto il sindaco di Cantù. Sì. Vabbè, io ovviamente non intervengo sull'opinione del sindaco, perché poi ognuno ha le proprie. E allora su che intervieni, scusa, se non intervieni? Voglio intervenire su quello che mi ha stupito, perché lui ha detto che staccherebbe la Lombardia dal resto dell'Italia. Sì, sì, vabbè, lui è a favore dell'indipendenza addirittura della Lombardia. Vabbè, ognuno. Perfetto, c'è gente che pensa alla Padania, prima pensava alla Padania, c'è gente che pensava addirittura a Milano indipendente anni fa. Ma io sono d'accordo, se loro vogliono fare una cosa del genere, a me va benissimo. Però quello che mi stupisce è che il sindaco di fatto percepisce uno stipendio che viene pagato dai cittadini che sono italiani, perché non credo che a Cantù abitino tutte persone di Cantù che vogliono. Allora? Quindi è una questione di coerenza. Cioè, io penso che la virtù del politicante dovrebbe essere prima di tutto la coerenza. E dunque che dovrebbe fare questo sindaco? Si dovrebbe dimettere, secondo me. Vabbè, si dovrebbe dimettere perché si dovrebbe dimettere? Non ho capito perché. Nel momento in cui lui richiede che la Lombardia si stacchi dal resto dell'Italia, a questo punto non ha senso che continui con Costanzo da Foggia, vai. Costanzo non c'entra niente. Costanzo da Foggia, vai. Volevo intervenire perché sono molte cose che ha detto il sindaco di Cantù, sono perfettamente d'accordo. In più inviterei tutte le aziende agricole che in capitanata sono state truffate, perché la signora di Napoli che dice no, siamo gente onesta, venisse in capitanata. Capitanata è una spieghiamola, è una fa parte della provincia di Foggia, dai. Perfetto, benissimo. Dove c'è ancora una grande attività agricola, diciamo. Bravissimo. E allora Costanzo? Non ho capito. Niente, praticamente che cosa è successo? Tutti i prodotti che hanno dato ai signori onesti di Napoli li hanno tutti truffati, pomodori. Vabbè, adesso però le truffe, le truffe esistono. Le truffe sono dappertutto. Ma che sono gruppi di napoletani, dici? Gruppi di napoletani. Truffatori napoletani che hanno fatto che cosa in Puglia, da quelle parti lì? Praticamente non hanno pagato il prodotto, l'hanno ritirato. Vabbè, adesso, amico mio, mi stai parlando di cose che io non so, per cui che vuol dire, dai? Che si possono accertare. Vabbè, Simona da Modena, dai, Simona da Modena. Questo sarà stato truffato da alcuni napoletani. Ma sì, sarà... ma come fai a dire che tutti i napoletani fanno le Simona, truffe? Simona, provincia di Modena. Poi dimmi, Simona. Buonasera. Niente, una cosa velocissima sul discorso delle Comunque Sgarbi è numero uno quando dice straniere. Come presidente della Camera l'Italia merita una donna rumena e non la Boldrina. Meraviglioso. Vittorione è sempre numero uno. Dai, Simona, dimmi. Io sono partita stamattina da casa alle 8, sono rientrata stasera alle 8:20, so, ho cucinato, ho fatto una cenetta meravigliosa per il mio dolce maritino. Sì. Il problema fondamentale, io farei tanto volentieri la geisha per mio marito, gli farei trovare la signorina tutta bella profumata, peccato che io debba lavorare per portare avanti la famiglia in questo però, mondo. Però scusa oggi. Simona, non ci vuole molto a mettersi bella invece di stare magari... Ma io sono sempre bella, il problema è che noi praticamente, io torno a casa la sera, devo cucinare, organizzare la famiglia, sì, alle 8 di sera... Io torno a casa da lavoro, mio marito torna a casa. Allora, in però non ti stupire se non vuoi fare la geisha, non ti stupire se tuo marito si fa una chiavata in un'altra durante la giornata. Anche lei potrebbe fare, io devo dire la verità, amica mia, dai. Ma guarda, dopo 35 anni che siamo insieme, basta quanto state insieme? 35 anni. Ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni? No, assolutamente. Io 35 sono anni. 35 anni che siamo assieme. Ma tu l'hai visto un altro uomo in 35 anni o no? Io ho visto un altro uomo in 35, li vedo tutti i giorni. L'hai visto fisicamente? Sei stata a contatto con qualche altro uomo in 35 anni oppure sei monogama? Sono monogama. Amica purtroppo. Mia, 35 anni con un solo uomo. Ma non hai, ma non hai qualche rimpianto? Dici, no. Cazzo, mi sono. No, niente. No, ma io ti. Perché no, ti ammiro, guarda, ti ammiro. Allora, io, ma io stasera ho preparato il pesce impanato. È molto parenziana questa Simona. Molto parenziana. Una trifola di zucchina, la zucca trifolata. Ci sono tre contorni, due secondi, il vino e tutto il resto. Quindi io lei lo mi sta dicendo, che dopo un tot di anni, più che prenderlo per le parti basse, lo prende per la gola. Questo è il punto. No, ma questa è una bella metafora. È una sintesi. Ma io l'ho sempre preso per la gola ed è per questo che lui è rimasto. Ma dopo 35, dopo 35 anni il sesso com'è? Dopo 35 anni di convivenza? Non so se no, Simone, ma ci ha chiamato. È meglio perché ci conosciamo, perché c'è complicità. Cioè, non c'è la noia quando tu lo vedi, nudo, ingrassato, lercio. Lercio perché deve essere lercio perché magari è trasandato e non gliene frega più un cazzo. Quando lo vedi là nudo con la pancia, con questo pisello rattrappito, con questo pisello rattrappito. Perché deve essere così? Perché dopo tanti anni diventa rattrappito, per forza. Si rattrappisce, lo sai che si rimpicciolisce? Ma i cinquantenni non hanno. Perché tu ci stai da quando avevi 15, tu ci stai da quando 18, avevi, da 18 a 52, 53. 52. Beh, Simona, 25 anni di matrimonio. Sei da apprezzare per questa tua sincerità, devo dire la verità, però amica mia, ti sei persa tante cose in 35 anni e non credo che tu possa recuperare ormai, perché non credo che tu abbia intenzione di. C'è il problema della vita e quando uno è felice ed è sereno. Questo non c'è dubbio, se tu sei serena io alzo le mani. Serena, sono felice, la famiglia è felice, mia madre alzo le mani, adesso alzo si mette a tavola, ma da Dio, qual è il problema? Sesso quanto? Una volta al mese al massimo? Ma una volta al mese a questo punto? Una volta al mese? Dai, confessamela questa cosa, Simone, una volta al mese? Ma no, forse anche di più, dipende dai periodi. Ma questo è buono, più ma di una volta al mese. Cucinato, se lo fai più di una volta al mese dopo 35 anni sei al top. Hai raggiunto il top. Se riesci a farlo più di una volta al mese... Io ti giuro, io ti ammiro tantissimo, perché veramente è una grande resistenza, perché è veramente difficile. Parenzo, per esempio, è da pochi anni con la sua compagna praticamente non trova più. Io non ho capito perché devi diffondere notizie stupide. Sciocca la zanzara. Parenzo non lo fa più. Perché conoscendo Libero, conoscendo quelli di Libero viene fuori, sei proprio un miserabile, un cretino patentato. Però Simone è da apprezzare perché riesce, questo è malato purtroppo, mi si è ammalato un mal di gola, un po' di mal di gola. Allora, Simona riesce. Sciocca la zanzara. Parenzo malato. No, veramente no. Grazie Simona, ciao tesoro, ciao. E chiudiamo con Fernando dalla provincia di Caserta, sì, vai Fernando. Proprio tutto. Sì, dai. Fernando, vai. Buonasera. Dimmi Fernando, veloce però, poi domani casomai riprendiamo. Veloce. No, io volevo semplicemente ringraziare il sindaco di Cantù che con le sue dichiarazioni, semplicemente perché ha detto delle cose sicuramente vere, perché, addirittura tu da campano dici che le cose sono vere o sei ironico? Spiego perché ci sono sicuramente tante cose che non vanno nella città di Napoli e tante persone per bene poi devono sottostare a determinate cose. Indubbiamente però il sindaco di Cantù dovrebbe ricordarsi che visto che il Nord Italia è in mano alla 'Ndrangheta, quindi anche lui è una persona disonesta perché accetta tranquillamente i ricatti della 'Ndrangheta. Vabbè, provocazione ci sta. Non si può elevare per quanto ci riguarda. Discorso lungo, lo riprendiamo domani. Ragazzi, ciao. Salute. Ciao, Ricchione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.